10 nobile con loro e hola, qui pronti a raccogliere Donatello. Prova, mi sentite? 1, 2, 3, prova radio. Se ne andate in protezione non mi fa fare nulla. Come mai? Non lo so. Dice Killed, morto. E non mi fa entrare nel menu, quindi non la posso manco resettare. Oh, strano. Lo so, purtroppo però è successo, ce la devo buttare adesso. Ma l'ha controllata qualcuno? Sì, vediamo se riusciamo a togliere i piedi. Perché non ti fa entrare? K. Avascia abbasciate. A prima come va c'è l'umidità deve essere. Avasso a 1,1 torre stazionaria. A primo coso deve un po' più alte. A te? No, io non ne ho. Vuol dire non ha piovuto. Ma. No, ho già fatto un po' di pioggia, stavo scendendo con la bicicletta, ho fatto un po' di pioggerellina. La matta ne è varia, gà. Stasera non è entrato nessuno. Ah vai, veramente? Nessuno non è entrato. Ho chiamato, torno adesso per vedere se c'era qualcuno e se è entrato tu. Ma poi vuol dire che il periodo è un po' strano. E cosa vuoi fare? Vabbè, là, me ne faccio in QRT, mi si go che va vai dopo quelli di TV. Appa, là, ciao Natale, ce la risentiamo. Ciao Antu, ciao.